Dentro questa città c'è un posto e dentro al posto c'è un DJ. Mette solo i dischi che piacciono a lui. Contro tutta la giunta è un rischio, starai meglio casomai. Faccio quello che posso chiedermi. E fa lavori a Cottimo, ha il cappello di un soldato sul Como. Il treno merci ha preso il naso e dopo l'ha buttato via. Da quando sei partita qua nessuno canta più. Se tu fossi come un disco rotto che non capisco, non capisco se stai pensando ancora a me oppure no. E se trovassi tutto un altro posto, fammi un fischio se hai deciso cosa vuoi, ma anche no. La signora dice dei baci che te ne fai, che te ne fai, che te ne fai. E lei che cosa se ne fa di un cane blu? Io ci guardo il cielo d'estate, poi ci vado a cercare le pote. Mia nipote non capisce esattamente cosa sei. Se tu fossi come un disco rotto che non capisco se stai pensando ancora a me oppure no. E se trovassi tutto un altro posto, fammi un fischio se.